Sì, avanti per il controllo. Grazie, buonasera. Volevo capire se va bene di radio di segnale. Buonasera, Massimo Bulldozer da questa. Ciao Massimo, Carlo da questa parte. Stai arrivando molto bene da me, via Brunisset da inizio, quasi angolo via Savoia, Luna e Sole. Ok, grazie Carlo. Va bene, benissimo ascoltato. Mi sembra di averti già sentito qualche altra volta, però un po' di tempo fa forse. Sì, esatto, sempre io. Ok, anche tu, arrivi bene di segnale, la radio è leggermente bassina, poco bassina, però comunque comprensibile. Ma sei in barra mobile oppure sei fissa? No, sono fisso. Ah, bene, sì. Allora, il tuo QTH, se non è cambiato, è sempre quello, il segnale è buono, ottimo, e anche la radio è... Ok Carlo, grazie mille, dai, ero forse un annetto che non accendevo più, forse anche di un anno e mezzo, e diciamo che sembra che sia tutto a posto, dai, stazionarie, radio, sembra che sia tutto a posto. Ehi Massimiliano, tutto a posto, sì, anche io sono stato un bel po', un annetto, perché mi sono trasferito e quindi ho cambiato QTH, adesso un antennino attaccato alla ringhiera, capito? Con la città riesco a comunicare, diciamo abbastanza benino, per adesso sono con la stazione provvisoria, finché non riuscirò a sistemare sul tetto l'antenna. Ah, ok Carlo, dai, allora il tuo segnale è 9, non è che sia proprio un segnalino basso, il tuo segnale è 9, la radio è leggermente bassina, però comprensibile, capito? Non c'è problema, finché stai a organizzarti per la città arrivi bene, io sono fuori città, quindi sei perfettamente comprensibile. Sì, ho fatto diverse prove in questi giorni, ho ripreso da, diciamo, un mesetto così, ho fatto una piccola stazione e adesso sto andando con, diciamo, un presidente di quelli piccolini che stanno sulla mano, un presidente C1000 che ha 5 watt, capito? E poi prossima settimana devo cercare in garage l'altra radio che è più prestante, CRT 9009, capito? Quello c'è anche banda laterale, qualche watt in più e oltretutto si può anche regolare la potenza, quindi dovrei anche migliorare un attimino anche di segnale, dai, almeno per le zone più alte, chi ha l'antenna esterna riesco ad arrivare, Massimiliano. Ah, ok, dai Carlo, ti stai piano piano rimettendo in sesto, dai. Ok, no, vabbè, io giusto così, qualche prova, però non è che sto più modulando, la verità si dica, e non è che mi interessa, anche perché non è che posso stare davanti alla radio aspettando che entri qualcuno, anche perché mi sa che c'è rimasta pochissima gente, dai. Ok Carlo, dai, mi ha fatto piacere risentirti, un abbraccio, ci sentiamo alle prossime, dai, era giusto un controllino per vedere se era tutto in ordine. Ci sentiamo, buona serata e buon fine settimana. Bulldozer ti saluta. Ciao Massimiliano, Carlo da questa, ti cordializza, ricambia i saluti e grazie del piccolo QSO e comunque arrivo anche dalle tue parti, mi fa piacere, così qualora un giorno dovessi aver bisogno di controlli o altro, io un po' a tutte le ore attacco, quando ho la possibilità, perché mi ho fatto una scrivania di lavoro col computer e me l'ho messo a fianco, per cui facendo i turni anche io non è che ho orari precisi come molti al canale 10, entrano sempre a quell'ora, sono pochi, e quindi per cui io vado un po' a orari diversi, infatti mi hai trovato per quello. Va bene, di nuovo ciao, alle prossime, grazie di tutto. Di niente, dai, buona serata e buona continuazione di giornata. Ciao Carlo, alle prossime, ciao. Ciao, alle prossime. Fio. Cicco 10. Cicco 10, 27075. Cicco, Cicco, Cicco. Ciu, ciu, ciu. Stasera non vola una mosca. Chi è che bussa? Attenzione 10, c'è qualcuno? Cicco 10. Avanti, chi è? Ciao doppio, buonasera. Lupo da questa parte. Tutto bene? Beh, mi sto accingendo a dare la bustina al gatto. Fai, fai, dai la bustina. Meno le dare cocaina. No, solo chi se ne manca. Dai, dammi 10 secondi e ritorno. Via, vabbè, sono qua. Avanti se c'è qualcuno sul 10. Rieccomi. Via. Dai. Ti hai dato da mangiare al gattino. Ehi, è un po' che giriato, gattino, c'ha 14 anni. Ui. Già è coccolato, non ne mangia di bustine da 13. Ed è particolarmente viziato, quindi mangia bustine di quelle serie. E anche il mio era così. Il mio è morto che ne aveva 19. E mangiava solo gourmet gold, basta, non mangiava altro. Va bene, dai. In compenso ci regalano altro. Ascoltami già. Allora, adesso sto utilizzando il microfono, quello della ZG, l'M95, col cursore del gain a manetta. Mi dici come mi ascolti di radio? Bene, bene, perfetto. Bella presenza di radio, bella forte. No, va bene. Non distorce, è pulita? Sì, sì, no, no, non distorce. Io ho anche il volume un po' alto, quindi sarebbe sentita la distorsione, ma non c'è la distorsione. È alta la radio, ma non è distorta. Va bene. Guarda, adesso il prossimo passaggio lo faccio col cursore a metà e così mi dici se c'è una differenza, ok? Guarda, adesso ho messo il cursore come di solito lo uso sempre, cioè il gain è praticamente a metà. Mi dici se hai avvertito qualche differenza? Leggermente, ma poco poco di meno, non è molta la differenza, non è molta. Ok, dai, va bene, lo lascio a manetta. Oh, yeah. Va bene, dai. solitamente lo tengo a metà, la batteria è ancora buona, di quelle serie alcaline, quindi non si è scaricata in questo periodo. Oh, la batteria io l'MV5 la cambio ogni 2 anni. E lo uso perché uso quasi sempre questo, quindi non si scaricano, solo durano molto. Il gatto che razza è? Oppure di quelli europei? No, l'ha trovata mia madre dentro una busta di nylon, fatti l'ugonto. Poveraccio, che manco male che la sai fare. Vabbè, in casa più o meno sono entrati gatti del genere. L'altro che avevamo, il soriano, quello arancione, l'aveva trovato mio fratello dentro un cassonetto. Che gentaglia che esiste al mondo. Io una volta andavo a accompagnare la mia ragazza che abitava su via Pulizzetta e scendendo via le Cappelle ho trovato una busta che si stava muovendo, a parte c'erano dei cagnolini, ma belli, i cani proprio. E li ho presi e andando me li ho presi in braccio, erano 3, me li ho presi in braccio, andando tutti si fermavano, che belli, e cioè se lo vuoi uno te lo do, ma andando li ho fatti tutti fuori, speriamo che siano capitati in mare buone, li ho tutti dati. Dai, manco male, dai, è finita bene, no, vabbè, lasciamo perdere che c'è gente in giro che non la carità. Oh, yeah. E quindi i gatti che sono entrati a casa praticamente hanno avuto un inizio sfortunato, dai, poi bene o male ce li siamo tenuti e adesso è rimasto, cioè è rimasto. Adesso c'è lui, già da 14 anni, e niente dai, quindi adesso gli ho dato la busta, adesso... Avanti, Luca! Andiamo, andiamo, Caterina Roccata! Aiù, entra! Grazie Marco! No, io ho avuto 19 anni, è cresciuto con mia figlia, il mio. Pronto, pronto, pronto, mi sentite? Pronto, 1, 2, 3, pronto, pronto! E beh, pirittoso! Prima da lontano! Ma mi sentite sì o no? Fate una alla volta, no? Quattro alla volta! Penso che sta parlando da lontano, io lo sento basso. E chi è che mi sta chiamando, papà? Eh beh, Luca, il pirittoso. Ma mi intendi già? Sì, sto scherzando. Ma mi intendi già? Cazzo, Sergiano mi parla sopra, mi senti? Da, ti sento, tu mi senti a me? Certo, se no non ti avrei risposto. Adesso non mi sentivi sentendomi? Gianni rispondo anch'io. No, no, aspetta, già non sapevo modulare, cazzo. Gianni è il solito dito veloce. Posso? Vai, adesso puoi. Ho detto, ci chiamiamo Gianni tutti e due, se tu chiami Gianni rispondo anch'io, chiamalo un profeta, a me chiamami doppio Ru, se no ci confondiamo. Ah, ok, un profeta, ma mi senti, dai, va bene allora, dai. Ma cosa stai usando, Ru? Un moto picco. Giambidoni, no, che radio stai usando? 3009 Superstar. La Superstar, capito. Allora, perché? Non va bene? No, è la radio che mi ricordavo un po' di tempo fa, capito? La radio di tempo fa era il Typhoon, e quella sono parcheggiato di nuovo. Il microfono è sempre lo stesso di anni fa, quello sì. No, no, no, infatti mi ricordo il suono della modulazione, che più o meno era quello, dai. Va bene, va bene. Come mi ascolti, Lu? Bene, bene, dai, bene, già abbastanza bene. La fondo scala. Benissimo, va bene. Anda beh, anda beh. Dai, doppio. E dai, dai. Poi a questo Luca lo saremmo fare i cacci dell'ana, buco. Solo. Ma pure un pezzo di lamiera si può farmi. Buonasera a tutti quanti. Ciao attore, ciao, buonasera. Avanti per chi vuoi, c'è Luca e c'è Gianni lo profeta, ma... Ah, il profeta gli ami piace. Come te nomo però. Ciao attore, buonasera, ben ascoltata da queste parti. Zona stazione ferroviaria. Andiamo bene, siamo vicino alla stazione. Certo che sì, certo che sì. Però non mi chiedete orari dei treni, che non ne so con nemmeno. Il profeta si deve farci fare in pressa, esci da casa e andare alla stazione. Ecco là, chi si vede buono? Abitare vicino lì. Certo che andiamo bene, andiamo, dai, dai. Sì, vabbè. E l'altro è Luca, mi ha detto. E a Luca vai come? Avanti, Luca. Andiamo, andiamo, cata! Bobo. Cata. Già di vetto puro. Dimmi una cosa. A me mi si è fatto le cose delle... E cambia del canale quando spegni, invece di farsi il rosso si è fatto blu, ma dovrò aspettare un pochino per rifarsi il rosso. Che boh, grande la TV è. 32 pollici. Che marca è? Saba. Che marca è? Saba. Saba. Boh, ma qua quando mi è arrivata a me, tipo quella. Deliberatamente in civile. All'incirca sì. E butto. Però prima di accendersi deve diventare il rosso, così è. Ci deve diventare il rosso. Il caccia deve diventare il rosso. E invece quando lo spegni si diventa blu. E devi aspettare un pochettino per lo riattacchi la corrente, lo riattacchi. Secondo cos'è si rimette il rosso. Però devi aspettare. Sì, ma la TV accende subito o stenta ad accendere? No, quando l'ho spenta si è fatto, è rimasto blu, invece di farsi il rosso. E quindi deve aspettare un pochino che si dovesse raffreddarsi e tutto. Sì, ma la mia domanda è, quando lo accendi, ci mette, stenta ad accendere o no? No, se si torna rosso si accende subito. Se no, stenta. Ma devi aspettare che ritorni il rosso. Beh, c'è qualche componente che sta a farsi benedire. Sì, ma che non si fa benedire. Lo deve risolvere il cambio, no, che gli abbraccio. Quindi, quando si andando, arrivederci. Cambia a Dio, vai prima. Vabbè, tu nel caso non lo buttare, poi se lascialo andare finché va, magari poi te lo potrei controllare io, do un'occhiata, ma poi serve qualche componente, poi serve anche qualche condensatore. Così è. Ma te ne bisogna del ricambio, ce l'ho, ma sono una parte, quello lì, dopo di due giorni, l'ho provato qua in camera, dopo di due giorni si è messo a posto. Ed è andato per un mese. Me la torno da fa. Vabbè, comunque farò andare poi. Se ci sono problemi non lo buttare per quello. Magari se ti peggiora il problema te lo potrei controllare. Mi sa che ce l'ho una scheda di quel televisore. Non sono sicuro. Non lo so, perché quello mi ha avviato tutto ce l'avevo buttato. Perché era un LED, poi ho un problema sulla scheda, anche c'era. Allora mi sono rotto le balle, poi ci ho buttato tutto, ho recuperato solo il pannello LCD e basta. E quelli possono servire sempre. Nel caso tienilo così, poi se peggiora mi contatti, me lo fa sapere, gli do un'occhiata. Sì, ok. Va benissimo. Ma vai, io il televisore Samsung che ho qua. Che figaggio, sono 15 anni e da sempre andendo. Quindi per una malibata. Sicuramente sì. Ui. E te show my friend, Sardinia from Italy. Avanti, io profe. Sempre chi tu è, oi. Non sta di ascio. Ma tutti gli americani qua mettono, fanno così. Dico, la cosa è che sono mal di pancia e te lo vogliono dire. Ma si accusi. Sei ancora meglio. Aspetta. Devo andare con il negozio roba di mia madre che hanno aperto della Conad. Dice che c'è roba che costa un bel poco. La prima settimana come ha aperto? Per una 10 giorni, da. I soldi dei lavoratori dei pensionati. Fatto è così. Cappa. Vabbè. Oh, yeah. Luca! Come da una risa. Sabai, io ti... Siete che fa... Karate sicuramente. Che sabai? Un calcio alla faccia gli ha tirato. Ma dove? C'è un video. Ah, la rissa di Monte Rosello? No, è furia. È quella di famiglia, quella che è successa da quando ieri mi pare che sia successa. Quella rissa di famiglia. Un vicino della figliola, il babbo, insomma, un casino senza. Oi. Ogni andata se ne intende una. Anzi, noi siamo tranquilli, Sei a Torino, a Milano, quello che succede. Ma carità, con chi si imbaranza, gli viso, Barrosi, il gas. Vuol dire che Emilia è la partita di buona, la passa dall'Italia e non farli più rientrare. I Sardegna gli hanno già detto, quelli di loro gli hanno detto venite qua quando volete, che magari ci hanno fame. Oh yeah. Fai ragionare in buche, fagene prima, amico. E chi mi... non mi sa di lasciare, qui ci sono tutti Barrosi, io sono Maranza, il capo dell'Italia, questo e quell'altro, comando tutti, qua comando io a Torino. Ho detto, chi si ha detto, che c'ha il coltello in mano, perché affettava a qualcuno. Si è avvicinato ogni più tipo grosso, e l'ha pigliato lo corredo, fa giumare il trangureggia. Perché sono Barrosi, e gente che viene qua per farsi vedere, capito? Sono un po' fissatelli. E gente va a Russia, c'è la ciappa di Russia, io come la Russia, e come ti dicevo che andavo per casa in Italia, quando ero ragazzo io passavo e dava ciappa di un bel salaietti, senza nessun motivo. Passava e quindi un ciappa e se ne andava. Un giorno c'erano questi ragazzi, tra cui c'era uno con gli occhiali grossi, e il tipico, quello che può sembrare soggetto della situazione, no? Ecco, tu un ciapo, oh, ma non mi sa fatto, si toglie gli occhiali questo qua, che gli fudo una sussa, ma la sussa è così, la metta, mi sa che ha un gambo. Ma se me non va più provato gli sciarpo di un ciaffo. Oh, la mamma di te la fa dei ribelli, da tutti i baci a faccia, da tutti i baci per tutti. E gli ha detto, è la prossima volta, non lo fare più, Poi ha bigliato un buraco da metà che se n'è andato. Naturale. Ma sono pigliato una giusta. Ma qui in palla la prossima volta. Tore, bene, mi sta ascoltando da quale parte di laggiù. Forte e chiaro. Radio 5, perfetta. Il segnale 9:30 quasi. Ticcata, dove sia, quello che non fuma. Ehi, vabbè, piano piano, già sono andato avanti. Un attimino, Oh, Gianni, una Hyundai X35, la CRDi, CRDi, vabbè, Comfort. 2500 euro motore da cambiare. E se vuoi che non manco di stampa 2500 euro, dicevi già quello motore. Ehi, è il Groovy. Ma... io qua voglio prendere quella di Manuela, perché tanto è sempre ferma. Adesso glielo dico se se la vende. E almeno 3.000 euro la vendo. Che macchina è? Y. Cos'è, diesel? No, benzina. Poi, già, 3.000 benzina, 3.000 la benzina che trago un paleggia. Ui. Se fosse stato un diesel tanto quanto, ma la benzina sarà, poi dipende da come è messa, se è messa bene, no, ma mi sa che l'avevo vista ma non mi ricordo bene se è messa bene, non lo so. Poi buono, ce l'ha, l'aria condizionata, com'è di motore, com'è gommata nuovo, com'è messa, all'interno è buona. Sì, tutto a posto, gommata già all'80%, là sarà. Messa come una macchina del 2010. Quanti chilometri ha? 135. Sì, ma internamente messa bene. E fuori com'è? Fuori c'era qualche cosa di carrozzeria, però motore buono, dentro non è messa male, è tutta foderaccia, tutti i foderini, le sedili, eccetera. Ah, c'è copri sedili? Il ecco delle sedili, sì. Ah, bisogna vedere come sono i sedili, queste cose si guardano già, Era tipo la mia l'ho comprata, con i sedili sono abbastanza buoni, dai. Il motore è un po' così, me l'ho sistemato, va bene meglio. Ma il motore è la cosa importante, se va male il motore ti rabbini le luci. Questa di motore è un burro, io sono andato anche fuori, sono andato nel Morese, sono andato da tante parti, sono andato ad Arbatax, il motore va benissimo. Sì, senza dubbio. Senza dubbio, però sai cos'è il discorso? Il discorso è sempre si è fatto la cinghia di distribuzione, cose così, già, è quello. Quando la deve fare, cioè, costicchia la cinghia. Fatta la cinghia. Distribuzione è stata già fatta, anche tagliando. Ho capito. E beh, il microfono che avevo sistemato io, sta andando bene. Sì, va bene. Ok. Casino, focalizzate. Qua hai trovato un messaggio già su WhatsApp. E quindi? E quindi ci già. E cos'è, a piedi sei? A piedi sei lui? No, già. Adesso, vabbè, c'è freddo. Ho un monopattino, mi sono preso un monopattino, però lo uso d'estate per andare al lavoro. Adesso è pericoloso, cosa pericoloso, ma bisogna saperlo usare, vuole usato come Dio comanda, se lo usi a caso tuo, cioè a caso tuo in parte generale, allora ti fai male. Boh, vabbè, ho dei dubbi al riguardo, ruota è troppo piccola e poi cazzo senza sospensioni, basta poco per finire in terra, a me. pure in bicicletta non avessi finito da dire mari. Già ci siamo capiti, in bicicletta con le ruote grandi già non, certe cose non capitano, capito? Poi a Sassa ragazzi, è tutta una trincea, figurati tu. E beh giovani. Milo mio, arrivato Cosa mi raccontate di bello? Buonasera, chi c'è? Gianni 2 e non so se c'è qualcun altro. Ci sono io, c'è la doppio, c'è l'attore e poi c'è Luca. Questi sono attualmente presenti al canale 10. Ah bene, ciao Luca, allora e poi se c'è qualcun altro in ascolto si ritenga super salutato. E niente, io sono rientrato da poco perché ero in giro a farmi un po' di spesa e se no, capito, non si mangia se non mi faccio la spesa. Come si dice a Sassa, il giro di banca. Esatto, giro di banca. E beh Gianni, doppio room. Ciao Carlo, ciao. Guarda, devo scappare perché c'è Tyson che mi sta chiamando, probabilmente deve fare i bisogni, dai. Vi saluto, mi dispiace che non potevo intrattenere, però mi sta rompendo. Vai tranquillo se hai il cane in protesta, poverino, portalo pure che lui ha bisogno. Vai tranquillo Gianni, ciao, alle prossime. Ciao ragazzi, statevi bene, buona continuazione, dai. Andave. Va bene, io faccio un altro paio di passaggi. Tra l'altro ho scoperto che mi hanno... Forse mi hanno rubato l'account di Instagram, perché me ne avevano chiuso uno e l'ho ritrovato aperto. Infatti stavo controllando qua, ho fatto la segnalazione, ma dimmi tu. Io già non sono per niente social, non ho mai avuto né Facebook né Instagram, tutte queste cose qua non mi hanno mai attirato e quindi l'unica cosa che ho uso WhatsApp, ma mi serve anche per lavoro, capito, per i ragazzi, insomma è solo quello, poi di quelle altre cose social zero riporto niente e meno male. Ho capito, no vabbè, ma io lo utilizzo solo esclusivamente per quando ci sono degli eventi che devo pubblicizzare e basta, insomma questo è quanto. Poi vabbè, Facebook lo sto usando quasi niente ormai, diciamo che mi ha anche stancato e tutto qua, dai. Ho capito. Luca, e allora cosa mi racconti di bello? Mi sa che sei spostato Luca allora Gianni. Vabbè. E io qua sono, adesso mi ha acceso il computer un attimino, ho detto sino alle 8, poi me ne vado a cena. Già sto in ascolto, tu se devi chiudere tranquillamente, non preoccuparti, da se bussa qualcun altro già rispondo. Vabbè, sì dai, che ore sono le? 7:20, sì adesso va. Devo scappare anche io perché devo sbrigare della roba e se non lo faccio adesso poi mi rimane sul groppone. Vabbè dai Carlo, ci sentiamo alle prossime, salutone a chi è ancora nel canale, agli ascoltoni, ci sentiamo un altro momento, ok? Va bene Gianni, ci sentiamo alle prossime, grazie del piccolo QSO, ce la ricordo. Ciao Gianni. Ciao, buona serata. Allora, ciao a tutti. Tutti in Parigi, sì.